Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:07 e oggi la giornata sui mercati è davvero positiva. Parigi è in progresso del 4,33%, Francoforte del 5,09%, Londra guadagna il 3,37%, a Piazza Affari il MIBTEL si avvia a chiudere in progresso del 2,29% e l'S&P MIB del 2,19%. La seduta era già cominciata bene. Poi è arrivata l'apertura di Wall Street. In questo momento il Dow Jones guadagna il 2,15%, il Nasdaq il 2,60%, lo Standard & Poor's il 2,41%. Siamo in attesa di un nuovo discorso da parte del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che dovrebbe specificare le razionalizzazioni sulla spesa pubblica, tanto da portare a risparmi attorno ai 40 miliardi, e questo ha sicuramente dato nuovo vigore ai listini che così hanno influenzato i listini statunitensi, che hanno influenzato anche l'andamento dei listini europei. Oggi parleremo, oltre al discorso di Obama, che cercheremo di seguire a questo punto in diretta, vedremo a che ora parlerà e che cosa dirà più nel dettaglio. Parleremo però ai noi anche del calo dei consumi in Italia, un dato piuttosto brutto quello comunicato dalla Confcommercio per quanto riguarda il mese di gennaio. Andremo più nel dettaglio a vedere che cosa è successo sui mercati e poi cercheremo di fare anche il punto sul vertice che si apre tra meno di mezz'ora a Palazzo Chigi, il vertice sulla crisi tra il governo e le parti sociali. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso invece tutte le notizie in breve. E partiamo come sempre dal petrolio. Il greggio apre in rialzo a New York, più 4,7% a $43,60 al barile. Febbraio però è stato un altro mese in netto calo per i consumi di energia elettrica. Dopo il meno 8,5% di gennaio, nel mese appena finito la quantità di energia elettrica richiesta in Italia è stata pari a 25,9 miliardi di kilowattora, con una flessione di quasi 9 punti percentuali rispetto ai volumi richiesti a febbraio di un anno fa. Nei primi due mesi di quest'anno la società Autobrennero ha registrato un calo del 23% del transito dei TIR. Questo è quanto ha detto il vicepresidente della società autostradale. Si tratta dell'effetto della crisi globale. Notizie dai mercati. Come ogni giorno vi diamo il risultato dell'Euribor, tasso a tre mesi ancora in flessione, oggi è sceso di 2 punti base, dall'1,80% all'1,78%, aggiornando per la 14ª volta consecutiva il minimo storico. Crédit Agricole, la seconda banca francese, ha chiuso il 2008 con un utile di 1,02 miliardi, in calo del 75% rispetto a un anno fa e inferiore anche alle attese dei mercati. Il dividendo proposto è di 0,45 euro ad azione. E in tema di banche, oggi ha parlato l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, ha rassicurato sulla situazione delle banche controllate dal proprio gruppo nell'est Europa. Ad oggi la situazione che vediamo, ha spiegato Profumo a margine di un incontro sulle imprese, nei conti delle nostre banche è molto migliore di quella che apparentemente viene descritta. E ancora, gli impieghi del gruppo Unicredit nei paesi dell'est Europa sono pari a 75 miliardi su un totale del gruppo di 610 miliardi destinati a famiglie e imprese. Questo è quanto ha affermato Alessandro Profumo, il quale si è anche espresso sui Tremonti Bond. Unicredit sta valutando il ricorso a questo strumento, così come gli altri istituti di credito italiani. Questo è quanto ha detto Profumo, il quale ha spiegato che il gruppo prenderà una decisione quando avremo fatto le nostre valutazioni. E Economia internazionale. L'occupazione nel settore privato a febbraio negli Stati Uniti avrebbe registrato una contrazione pari a circa 697.000 posti di lavoro, secondo un sondaggio effettuato dalla società ADP, che ha rivisto al rialzo anche il dato di gennaio, da 522.000 appunto a 697.000 posti. Andiamo in Spagna. Il settore alberghiero spagnolo affronta la caduta dei pernottamenti avvenuta con la crisi economica, diminuendo le tariffe, che in gennaio sono scese del 2,6%, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica riportati nella edizione online del quotidiano El Mundo. I pernottamenti negli alberghi spagnoli sono scesi del 12% nel mese di gennaio rispetto allo stesso mese di un anno fa. Germania, effetto incentivi sulle immatricolazioni di auto in febbraio sono aumentate del 21% a 278.000 unità. Si tratta, come rende noto l'associazione tedesca tra le industrie di settore, del miglior febbraio degli ultimi 10 anni. E in tema di vetture, la Renault potrebbe lasciare la Formula 1 se non riuscirà ad ottenere una quota maggiore dei ricavi commerciali sportivi, a rivelare il possibile addio della scuderia francese, la stessa casa automobilistica. Veniamo all'economia italiana. La flessione del PIL nel 2009 potrebbe arrivare fino al 2,6%. La stima arriva dal vice direttore generale di Banca Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi alla cerimonia di consegna dei master di secondo livello in economia pubblica alla Sapienza. Visco ha ricordato come nel bollettino economico di gennaio Banca Italia indicava una flessione per il 2009 pari al 2% e una ripresa della crescita di mezzo punto percentuale nel 2010. I dati questa volta da parte dell'INPS. Riparte a febbraio la corsa alla cassa integrazione. Nel mese scorso infatti sono state autorizzate 25,9 milioni di ore contro le 3,9 milioni di ore dello stesso mese dello scorso anno, con un incremento pari a oltre il 553%. Questo è quanto rende noto un comunicato dell'INPS, sottolineando questo aumento eccezionale per la cassa integrazione ordinaria. E anche di questo sicuramente si parlerà tra poco meno di 15 minuti a Palazzo Chigi nell'incontro tra governo e parti sociali. L'esecutivo però dovrebbe presentare tra l'altro un pacchetto di interventi infrastrutturali pari a circa 16 miliardi di euro. Intanto il governo starebbe lavorando anche al progetto di innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile per le lavoratrici della pubblica amministrazione, parificando il trattamento a quello degli uomini, così come chiesto proprio dalla Corte di Giustizia europea. Anche se poi oggi è intervenuto il ministro Sacconi a questo proposito, il governo non presenta alcun emendamento al DDL, non è stata inviata alcuna bozza all'Unione Europea sull'equiparazione dell'età pensionabile di vecchiaia nel pubblico impiego tra uomini e donne, questo è quanto avrebbe detto Sacconi. L'eventuale innalzamento dell'età pensionabile per le donne su base volontaria è da valutare, ha detto il ministro, ma comunque non credo che sarebbe consentito. Sentiamo il ministro Sacconi intervistato da Paola Nania. Mi dispiace che si sia fatto tanto rumore per nulla, perché da un lato è da tempo nota la sentenza della Corte di Giustizia europea che ci impone di definire un percorso di omologazione dei requisiti della pensione di vecchiaia per uomini e donne nel pubblico impiego e nel solo pubblico impiego. Per l'altro non è stato deciso nulla, ci sono solo contatti con la Commissione europea per vedere quale può essere lo spazio di decisione consentito dalla Corte di Giustizia e dalla sua sentenza. Ne parleremo con gli attori sociali. Oggi pomeriggio. Ci sarà, non solo oggi pomeriggio, ne parleremo nei prossimi giorni in un tavolo ad hoc con gli attori sociali, come siamo soliti fare quando interveniamo in materia previdenziale. Quindi davvero una tempesta in un bicchiere d'acqua che non ha nessun fondamento, non c'è stata nessuna notizia ieri per oggi sui media. È possibile che si faccia su base volontaria? Questo lo deciderà, questo dobbiamo capirlo dalla Commissione, ma come ho detto i requisiti devono essere uguali per uomini e per donne nel pubblico impiego secondo la Corte di Giustizia, e non essendoci per gli uomini non credo che sarebbe consentita per le donne, ma ragioniamo proprio non di ciò che vogliamo fare, ma di ciò che possiamo fare. In merito all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego, ovviamente i sindacati hanno detto la loro. Il progetto del governo per appunto di alzare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego è un modo per scaricare i costi della crisi, due volte sul mondo del lavoro e tre volte sulle donne lavoratrici. Questo è quanto ha detto il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani a margine dell'assemblea dei quadri e delegati della Lombardia in preparazione dello sciopero annunciato per il 4 aprile. Si è espressa anche la CISL. La CISL non condivide la decisione del governo di proporre un innalzamento, seppur graduale, dell'età pensionabile delle lavoratrici della pubblica amministrazione. A dichiararlo è stato lo stesso segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Non siamo d'accordo per ragioni di metodo e di merito, afferma Bonanni. Per la CISL è inammissibile che su un tema delicato come quello delle pensioni il governo abbia deciso unilateralmente senza aprire un confronto con il sindacato, come si è sempre fatto per tutti gli interventi sulla previdenza. E adesso andiamo ad approfondire il primo dei nostri temi di oggi, quello relativo al calo dei consumi. Come avete sentito già nelle nostre notizie in breve, consumi in calo ad esempio per quanto riguarda l'energia elettrica, un altro mese di netto calo. Questa volta per quanto riguarda il mese di febbraio la flessione sfiora il 9%, a gennaio aveva raggiunto l'8,5%, l'abbiamo sentito anche per quanto riguarda il transito dei TIR all'Auto Brennero, la società Auto Brennero, quindi il transito dei tir al Brennero. Il calo è stato del 23% e questo è ovviamente un effetto della crisi globale. Calo dei consumi per quanto riguarda le famiglie nel mese di gennaio, un calo particolarmente pronunciato, si tratta di un meno 4,6%, un dato davvero brutto, anche se arriva dopo tutta una serie di dati molto molto negativi. Noi siamo in collegamento con il direttore dell'ufficio studi della Confcommercio, Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Allora, direttore, partiamo proprio da questo dato. L'indicatore dei consumi a gennaio mostra un meno 4,6%, un dato che è il terzo peggior risultato da un anno a questa parte, nonché dodicesima variazione negativa dal gennaio dell'anno scorso. Sì, capisco che insomma, il bollettino di guerra, così snocciolando questi numeri, dà una brutta impressione, però così stanno le cose. Francamente il dato di gennaio è un dato brutto, peggiore anche delle aspettative, ed è un dato molto negativo nonostante che gli alimentari e l'abbigliamento, anche attraverso il circuito dei saldi, tutto sommato abbiano tenuto, seppure cedendo ovviamente in termini di spesa, comunque sono andati bene. Quindi ci sono una serie di altri settori molto importanti che invece hanno mostrato delle contrazioni di spesa veramente forti. Di quali settori stiamo parlando in particolare? Certamente della mobilità, della vasta area della mobilità che va dall'acquisto delle autovetture all'acquisto dei motocicli, pedaggi autostradali, trasporti aerei. Il dato può essere un pochino troppo pessimistico, nel senso che non abbiamo i trasporti ferroviari che hanno avuto degli incrementi importanti dei quali non riusciamo a tenere ancora conto. Un'altra cosa che va segnalata è che sul dato di gennaio pesa, per quello che riguarda motocicli e automobili, un effetto negativo dovuto all'attesa del rinnovo e dell'espansione degli incentivi. Sì. No, si disse si può fare, quindi le persone hanno aspettato. Probabilmente a marzo si vedrà invece un effetto positivo. Comunque in termini di spesa la contrazione è fortissima. Sicuramente vedremo l'effetto positivo, anche perché già sui dati riguardanti le immatricolazioni del mese di febbraio, per quanto siano stati dati negativi, sono stati migliori rispetto ai dati di gennaio, e quindi molto probabilmente a marzo ci sarà una variazione su questo capitolo. Per tornare a quanto lei diceva sugli alimentari, perché sappiamo essere un tema molto delicato e soprattutto in un momento di crisi come questo uno dei capitoli più incomprimibili, perché insomma mangiare bisogna mangiare. Voi avete detto che dovrebbero essere finite le tensioni proprio sul capitolo degli alimentari. l'abbiamo detto noi, l'ha detto, l'ha rilevato l'Istat al di là di ogni ragionevole dubbio. Abbiamo avuto già da settembre scorso una serie di riduzioni che finalmente sono arrivate anche all'ultimo baluardo, che era la pasta di semola, che ha avuto una forte riduzione di prezzo nell'ultimo mese, in febbraio. Quindi dovrebbe essere passato il peggio e dovremmo avere nel futuro prossimo ulteriori riduzioni del livello assoluto dei prezzi. Tra l'altro queste aspettative, queste percezioni di riduzione dei prezzi sono già incorporate nei miglioramenti del clima di fiducia delle famiglie. L'ISAE a gennaio, febbraio rileva un incremento della fiducia che è dovuta soprattutto alla risposta riguardanti le aspettative e le valutazioni sui prezzi. Quindi i prezzi sono decrescenti, speriamo che lo siano a sufficienza anche in futuro per dare un po' di conforto ai consumatori. Ecco, però fino a questo momento, dottor Bella, come dire, il rallentamento dell'inflazione in qualche modo non ha aiutato molto i consumi, anche perché abbiamo visto il dato sul PIL, un dato piuttosto, anzi pesantemente negativo, questo meno 1%, che è dovuto in parte consistente proprio al calo dei consumi. Il meno 1% è dovuto al calo dei consumi, ma non in modo prevalente, nel senso che i consumi tutto sommato sono andati meglio del PIL, cioè si sono ridotti di 9 decimi di punto, sono gli investimenti che sono scesi di oltre il 3%. Oggi il problema più grande è la fiducia delle imprese, non tanto quella dei consumatori, che avendo meno reddito, avendo subito delle pesanti perdite in conto capitale sulla ricchezza finanziaria, ovviamente, logicamente e razionalmente riducono i consumi. Noi abbiamo rilevato addirittura, sia col Censis che attraverso ISA, che effettivamente ancora esiste un po' di capitale fiduciario presso le famiglie, che sostengono di essere tutto sommato disposte, ben disposte nei confronti degli eventuali acquisti, dei piani di spesa. In poche parole, se ci fossero quattrini da spendere, lo farebbero, li spenderebbero. Sì. E purtroppo anche in termini di crescente disoccupazione i redditi subiscono una pressione verso il basso. Senta, dottor Bella, voi ci sono delle altre associazioni che prevedono, anzi hanno, temono un rischio deflazione. Questo in qualche modo preoccupa anche voi? Spieghiamo in termini proprio piccioli che cosa vuol dire la deflazione. Comporta una diminuzione costante dei prezzi alla quale non si accompagna un altrettanto costante aumento dei consumi, insomma. Sì, la deflazione, però, ecco, bisogna essere intellettualmente onesti, è una malattia che non conosciamo, cioè che non abbiamo studiato perché non si è verificata. Perché non si è verificata. Salvo in alcuni casi come quello del Giappone. Deflazione vuol dire che i prezzi continuano a scendere, sì, ma non scendono perché i costi sono inferiori e quindi c'è una trasmissione di minori costi, sì, in termini di minori prezzi ai consumatori, ma semplicemente perché non c'è domanda, non c'è fiducia, non si spende, l'eventuale reddito viene risparmiato e chiaramente, non essendoci domanda e con prezzi calanti, i margini delle imprese si riducono gli utili, non si investe e quindi si contrae anche la capacità produttiva e quindi la disoccupazione. È una spirale negativa nella quale dobbiamo evitare di cadere. Non credo però che siano rilevantissimi i rischi in questo senso. Quindi non avvertite dei segnali da questo punto di vista? No, per ora no. È chiaro che se la situazione dovesse aggravarsi andremo incontro a uno scenario che non siamo in grado di decifrare, perché è uno scenario completamente nuovo. Inedito. Certo. Senta, dottor Bella, questa è una domanda, le chiedo un'opinione su questo. Secondo lei, visto che alcune associazioni dei consumatori chiedono a gran voce alla grande distribuzione di passare dalla politica delle promozioni a una vera e propria politica di diminuzione dei prezzi, secondo lei, visto che le promozioni in questo periodo hanno ottenuto grosso successo e ovviamente la motivazione è sotto gli occhi di tutti, secondo lei questo tipo di politica ha esaurito il suo ciclo? Cioè bisogna fare un ulteriore passo in avanti? Ma questo francamente non lo so. Io credo che gli strumenti del marketing, gli strumenti di relazione tra distribuzione piccola ma anche grande e consumatori siano molteplici e articolati. Le promozioni vanno bene, non c'è grande differenza in realtà tra riduzioni nominali dei prezzi e promozioni, occasioni, vendite con sconto, non c'è una grande differenza. Le persone hanno mostrato di gradire certi strumenti di marketing e probabilmente si continuerà su quegli strumenti associandoli anche a ulteriori riduzioni dei prezzi, anche perché in questo momento i prezzi sono effettivamente in contrazione grazie anche alla fine di quelle tensioni sulle materie prime internazionali che avevano creato dei grossi problemi alla nostra economia nel corso del 2008. L'ultimissima domanda, vorrei chiederle se dai vostri studi, dalle analisi, dei vostri dati scorgete qualche elemento positivo almeno sui mesi futuri. Ma diciamo con molta difficoltà, l'unica cosa che ci sembra necessario valorizzare, magari con una difficile ma importantissima operazione di riduzione fiscale generalizzata, magari piccola ma generalizzata, ecco, l'unica cosa importante è che ad oggi, come dicevo prima, le famiglie palesano una certa residua fiducia nei confronti del futuro, una fiducia fragile, provvisoria, certamente un'apertura di credito che potranno rapidamente ritirare, ma ancora c'è, cioè non siamo in una situazione di depressione. E la fiducia delle imprese, che in questo momento, soprattutto per le restrizioni sul credito, è veramente ai minimi storici. Grazie dottor Bella, il direttore del centro studi della Confcommercio. A lui buon pomeriggio e buon lavoro. Anche a voi. Le 17:33 minuti, di nuovo in diretta in compagnia di Focus Economia. Vogliamo subito rispondere a Emilio da Bologna, che ci chiede come è messo l'Euribor a un mese. Ecco, soddisfatta la sua richiesta, 1,48 nella giornata di oggi, anche qui c'è una lieve flessione da ieri dove era 1,50. Vi ricordo il numero 349-238-6666 a cui potete inviare i vostri sms. Prima della pausa stavamo parlando della crisi dei consumi, del calo dei consumi e di un problema di fiducia in particolare per quanto riguarda le imprese, non tanto per quanto riguarda i singoli. Per contrastare la crisi economica è necessario difendere le piccole imprese, perché la tenuta sociale del paese dipende dalla tenuta delle piccole imprese. Questo è quanto ha sottolineato il presidente della piccola industria di Confindustria, Giuseppe Morandini, intervenendo al convegno Impresa Italia organizzato da Unicredit. Sentiamolo. Io sinceramente vedo di fronte due mesi nei quali la spia di riserva di liquidità di tante piccole e medie imprese si accenderà. Quindi l'orizzonte temporale sul quale noi ci dobbiamo traguardare sono senz'altro i prossimi due mesi. O noi nei prossimi due mesi riusciamo a immettere liquidità nel sistema produttivo, oppure il mercato procederà con la propria selezione. Se la priorità nostra è, come deve essere, priorità di tutti, la tutela e la salvaguardia del maggior numero possibile di posti di lavoro, perché questa è la responsabilità che ci deve unire, noi dobbiamo assolutamente tutelare la piccola e media industria. La tenuta sociale del paese, e sottolineo la tenuta sociale del paese, passa dalla tenuta della piccola impresa, che in questo momento ha bisogno di due cose: liquidità e ristrutturazione del debito. Abbiamo detto, il convegno Impresa Italia era organizzato da Unicredit. Il gruppo ovviamente durante il convegno ha tenuto a dare anche una serie di dati, ha tenuto a precisare alcune circostanze. Nei primi due mesi dell'anno Unicredit ha concesso nuovi finanziamenti per circa 2 miliardi di euro a oltre 22.000 piccole e medie imprese, pur in presenza di un profondo cambiamento dello scenario economico che incide sulla propensione delle imprese a fare nuovi investimenti. È quanto informa il gruppo in occasione appunto dell'incontro su Impresa Italia. Tuttavia, rileva Unicredit, a inizio 2009 si è registrato un calo del 30% nella domanda di finanziamenti. Questo ovviamente precisazioni dal punto di vista dell'offerta, bisognerebbe vedere anche poi tutte le condizioni a cui queste offerte vengono date. L'amministratore delegato Alessandro Profumo ha poi sottolineato come la banca stia sostenendo le aziende in perdita. Sentiamo proprio questo passaggio. Nel mese di gennaio e febbraio noi abbiamo, di questi crediti nuovi che abbiamo erogato, il 24% di questi clienti hanno il conto economico in perdita e il 39%, il 24% è una parte di questo 39%, hanno un ritorno sul loro capitale sotto il 2%. Fatemi dire che intanto Basilea 2 c'è, ma noi ci passiamo abbastanza sopra. Prima cosa, che credo sia importante. La seconda cosa è che accompagniamo anche imprese che difficoltà ne hanno. Cioè, questi sono i numeri, sì. I numeri oggettivi, e sono 17.000 domande di credito. L'amministratore delegato è intervenuto anche sulla situazione dell'Est Europa, precisando gli impieghi del gruppo Unicredit nei paesi dell'Europa dell'Est sono pari a 75 miliardi su un totale del gruppo di 610 miliardi destinati a famiglie e imprese. E poi ancora Profumo ha rassicurato sulla situazione delle banche controllate proprio dal gruppo Unicredit nell'Est Europa. A oggi la situazione che vediamo, ha spiegato Profumo al microfono della nostra Paola Cavadi, nei conti delle nostre banche è molto migliore di quella che apparentemente viene descritta. Sentiamolo. I paesi dell'est sono molto diversi uno dall'altro. La Romania, diciamo, dal nostro punto di vista è una presenza relativamente piccola. Noi, come sapete, diciamo, abbiamo la Polonia, che è di gran lunga il primo paese del nostro centro-est Europa, dopodiché il secondo paese pesa sul totale del gruppo credo l'1,5%. Quindi, diciamo, c'è una frammentazione molto consistente. I dati macroeconomici di ognuno di quei paesi sono diversi. L'andamento delle banche anche nei primi mesi di quest'anno è buono, molto buono. Certamente valutiamo con attenzione il trend macroeconomico di questi paesi che, avendo dei tassi di crescita superiori nel passato, oggi sentono di più la frenata. L'Ucraina forse è il più rischioso dei paesi nei quali siamo presenti. Questa settimana il Fondo Monetario Internazionale è presente in Ucraina e quindi guardiamo con confidenza l'evoluzione della situazione in quel paese. Oggi non sono previsti default di questi paesi. E guardando i dati anche di gennaio, continuiamo ad avere delle performance buone. Proseguiamo con attenzione. Ad oggi la situazione che vediamo è molto migliore di quella che vediamo nei conti delle banche, quindi nella realtà delle nostre banche, è migliore di quella che apparentemente viene descritta. Abbiamo realizzato degli interventi di ricapitalizzazione di alcune partecipazioni perché, essendo cresciute, manteniamo un rapporto fra capitale e impieghi che sia corretto. Profumo è poi intervenuto, ha parlato anche dei Tremonti Bond. Unicredit sta valutando il ricorso a questo strumento che è messo in piedi dal governo, così come gli altri istituti di credito italiani. Questo è quanto ha detto Profumo, spiegando anche che il gruppo prenderà una decisione definitiva quando avrà fatto le relative valutazioni. E adesso noi andiamo ad analizzare la giornata a Piazza Affari. E siamo particolarmente contenti oggi perché è stata una giornata molto molto positiva in Europa e anche ovviamente a Milano. Parigi più 4,74%, Francoforte più 5,42%, Londra più 3,62%, a Milano il MIBTEL più 2,41%, l'S&P MIB più 2,47%. Saluto il collega Andrea Fontana di Radiocor. Buonasera, benvenuto Andrea. Buonasera Valeria. Oggi una certa euforia sui mercati, diamo anche l'andamento dei listini statunitensi. Il Dow Jones sta guadagnando il 2,24%, il Nasdaq il 2,74%, lo Standard & Poor's il 2,36%. Ha volato letteralmente il titolo Fiat più 14,64%. Sì, una bellissima giornata per Fiat, che ha recuperato quota 4 euro che non si vedeva dalla metà di febbraio sostanzialmente. Diciamo che hanno influito positivamente innanzitutto l'euforia sui mercati che tu ricordavi oggi, che ha interessato un po' tutti i settori e in particolare il settore auto, tra i migliori con quello delle materie prime. Ma ieri, diciamo, i segnali di rassicurazione arrivati dall'amministratore delegato Sergio Marchionne e per quanto riguarda gli utili 2009, la situazione finanziaria e le alleanze oltreoceano e in Europa con gli altri gruppi industriali hanno dato fiducia al mercato. Ricordiamo che proprio oggi Marchionne è negli Stati Uniti, dove nei prossimi giorni parlerà appunto con Chrysler, illustrerà al tesoro statunitense il piano di collaborazione, di partnership con Chrysler. Andrea, bene tutto il comparto petroliferi? Sì, una buona giornata per i petroliferi e che è stata innescata soprattutto dal buon rialzo del greggio, tornato sopra i 45 dollari a New York, una festa, diciamo così, metaforicamente, che ha interessato un po' meno Eni, anche se ha avuto un recupero nel finale. Sono arrivate due indicazioni, diciamo, non negative, ma certamente che il mercato guarda con un certo timore. Innanzitutto Gazprom non rispetterà la scadenza di aprile per acquistare la quota del 20% di Gazprom Neft, che è appunto nelle mani di Eni, e quindi ci potrebbe essere, questo fosse confermato, un mancato introito da parte di Eni. Dall'altro canto, per quanto riguarda la controllata belga Distrigas, i comuni belgi hanno deciso di cedere la propria quota del 31% per circa 1,5 miliardi, ora resta da capire appunto se e quando Eni riacquisterà questa quota di minoranza, ma certamente il mercato ha guardato un po' con timore queste due operazioni. Allora, oggi c'è da dire che comunque sono tantissimi i titoli che hanno realizzato una buona seduta, una buona giornata, però allargando un po' il nostro raggio, andiamo anche sul totale, vediamo che cosa ha fatto Pininfarina, visto che anche in questo caso si tratta di un volo. Finalmente un buon rimbalzo per Pininfarina. Oggi sono state molte le notizie che hanno interessato la società rutorinese. Innanzitutto questa indiscrezione riportata questa mattina dal Messaggero sull'arrivo di un mandato a Banca Leonardo per cedere la società della famiglia Pininfarina, appunto Pinker, che controlla appunto oltre il 50% della società di componenti per auto. E dall'altro canto, al Salone di Ginevra, Vincent Bolloré, il finanziere francese che ha avviato da tempo una partnership per il lancio di un'auto elettrica con Pininfarina, ha detto di essere interessato eventualmente, se necessario, ad aumentare la propria quota di partecipazione nel gruppo torinese. Insomma, il mercato ha accolto queste notizie di operazioni straordinarie in arrivo in maniera euforica, e questo spiega il più 16%. Ecco, appunto, infatti ci tenevo a precisarlo in chiusura della tua spiegazione su Pininfarina, che il progresso era stato del 16,5%. Altro caso sul listino completo, Italease. Una buona giornata per quanto riguarda Italease, che inizialmente ha trascinato anche la controllante, cioè il Banco Popolare, che invece poi nel pomeriggio ha poco a poco arretrato diciamo i guadagni, passando addirittura in negativo e perdendo oltre il 3,5%. Per quanto riguarda Italease, è da tempo che si attende una soluzione, diciamo, questa società, ricorderete le difficoltà dello scorso anno, le banche popolari che sono azioniste stanno cercando una soluzione. Oggi sulle 24 ore indica nel prossimo weekend o al massimo nella prossima settimana l'arrivo di un piano industriale, e quindi si scopriranno le carte da parte degli azionisti sulla società di leasing, e diciamo così, in attesa di novità il mercato ha premiato il titolo facendogli fare un buon rimbalzo superiore all'11%. Le 17:47 minuti circa. Allora, Andrea, andiamo a vedere invece quelli che oggi sono stati più penalizzati. In pregilo, titolo peggiore, meno 13,65%. Una performance attesa per quanto riguarda in pregiro. Ieri in serata a mercati chiusi era arrivata la condanna nella sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Firenze, che riguarda l'inchiesta sulla TAV Firenze-Bologna, condanna appunto del consorzio Cavet, di cui fa parte in pregiro, che è stato ritenuto colpevole per l'illecito smaltimento dei fanghi, mentre è stato assolto per quanto riguarda il danneggiamento dei corsi d'acqua. Si parla appunto di un risarcimento, anzi è stato imposto un risarcimento superiore a oltre 150 milioni di euro. È vero che in pregilo ha annunciato il ricorso in appello sulla sentenza, ma su questa notizia il mercato non ha potuto che penalizzare il titolo. Altro titolo che oggi archivia una seduta davvero pesante, Autogrill, meno 6,45%. Per quanto riguarda Autogrill, siamo abituati, diciamo, a commentare questo titolo spesso in relazione ai movimenti del dollaro, visto l'esposizione della società sul certo. mercato nordamericano. Diciamo che invece per quanto riguarda i ribassi degli ultimi giorni vanno segnalati piccoli campanelle allarme accese da qualche casa di investimento per quanto riguarda le stime sull'andamento del 2009, su cui pesa anche peraltro il movimento sul fronte dei cambi, ma soprattutto l'allarme sul debito. Proprio ieri una casa di investimento segnalava come il rapporto tra debito e margini potesse sforare alcuni limiti già nel mese di giugno, richiedendo un rifinanziamento. Il mercato ci ha creduto e da qualche giorno che sta penalizzando significativamente il titolo, che oggi ha perso il 6,45%. Tra i titoli che hanno ceduto, ma a dir la verità in questo caso comunque la flessione è abbastanza contenuta, meno 0,63%, c'è anche Parmalat. Sì, per quanto riguarda Parmalat, erano attesi i conti di oggi, conti che peraltro non hanno spostato molto un andamento già piuttosto negativo per quanto riguarda il gruppo, e quindi la perdita è stata del 2,5%. Nel 2008 il gruppo ha visto il fatturato crescere dell'1,2% a 3,9 miliardi, c'è stato un calo per quanto riguarda il margine operativo lordo di circa il 13%, l'utile è rimasto sostanzialmente stabile, ma non è bastato, diciamo così, per tenere a galla il titolo oggi. Allora, intanto rispondiamo a Tiziano che ci chiede come è andato il titolo Tenaris. Lo dicevamo in apertura di collegamento con il collega Andrea Fontana, Tenaris rientra in quella diciamo in tutti quei titoli legati un po' all'andamento anche del petrolio, più 10,24%, molto bene quindi oggi la performance del titolo. Andrea, vorrei chiederti qualcosa ancora su Seat Pagine Gialle, che vediamo non riesce proprio a in nessun caso neanche a rimbalzare, meno 2,54% oggi. Esatto, se pensiamo che all'inizio di febbraio, quindi circa un mese fa, la società aveva dato vita ad un raggruppamento delle azioni, portando sostanzialmente il titolo a oltre 9 euro, vediamo come nel giro di un mese questo prezzo è stato più che dimezzato. Oggi il titolo tratta a 4,1. Diciamo che la posizione di forte indebitamento della società torinese è quella che preoccupa di più. Il mercato è preoccupato del fatto che la società nei prossimi 3 anni sarà fondamentalmente impegnata a ridurre il debito più che a investire per la crescita. Anche la presentazione del piano strategico dettagliato a metà di febbraio, presentazione alla comunità finanziaria, non ha del tutto convinto, anzi da quella presentazione il titolo ha continuato a imboccare la strada del ribasso e quindi è difficile effettivamente trovare indicazioni positive per quanto riguarda la società che diano spunto agli investitori per passare all'acquisto. Siamo in attesa peraltro a fine marzo del lancio dell'aumento di capitale da oltre 200 milioni. E infatti qui la strada sembra sempre la stessa e non si riesce a vedere quando verrà cambiata. Andrea, ti chiedo se è possibile un ragionamento un po' complessivo sui titoli bancari, perché ci viene chiesto anche al 349-238-6666, e poi so che sono uscite anche delle notizie in merito a Monte dei Paschi di Siena per quanto riguarda il dividendo. Sì, allora per quanto riguarda i titoli bancari bisogna dire che è stata una giornata sostanzialmente positiva, che anche se non sono stati certamente tra i titoli che hanno brillato in Europa, UBI Banca, che è stata la migliore, ha guadagnato il 3,5% facendo meglio del mercato italiano, così come ha fatto Unipol, ma per quanto riguarda invece Intesa e Unicredit Michele sono stati sotto diciamo così l'andamento dell'indice italiano. Ha fatto eccezione Banco Popolare per i motivi ricordavamo in precedenza, quindi anche per i motivi legati a Banca Italise, quindi ha perso il 3,7%. E per quanto riguarda il Monte dei Paschi è arrivato un'indicazione, diciamo così, sibillina da parte del presidente Giuseppe Mussari oggi in un incontro con la stampa, e alla domanda appunto sulla distribuzione del dividendo Mussari ha ricordato come, diciamo, la priorità in questo momento è la solidità della banca, e ha rimandato agli azionisti la decisione di distribuire o meno il dividendo. Diciamo che questa indicazione sulla principale priorità sulla solidità della banca fa intravedere, insomma, qualche dubbio sulla distribuzione del dividendo. Andrea, davvero l'ultima domanda, a questo punto vorrei chiederti se sono state solo le indicazioni arrivate dagli Stati Uniti ad avere un effetto così dirompente, potremmo dire, sui mercati di oggi, e ovviamente unito poi a un rimbalzo. Beh, certamente la componente più forte del rimbalzo è avvenuta nel pomeriggio, quando si è visto che Wall Street aveva preso decisamente una strada di forte recupero. Il Dow Jones intravede i 6.900 punti e sale di oltre 2 punti percentuali in questo momento. C'è da dire che anche gli scossoni sono figli di notizie derivanti dagli Stati Uniti, tant'è vero che oggi le principali preoccupazioni erano legate a General Electric. Si sono diffusi rumors per quanto riguarda una necessità di ricapitalizzare il business finanziario del colosso statunitense, che è arrivato a perdere oltre il 18% nel corso del pomeriggio la società, e quindi questo ha avuto un effetto di rallentamento sugli indici delle borse europee. Poi la società ha smentito la necessità di un aumento di capitale, il titolo ora perde meno dell'8% e ha permesso alle borse europee di indirizzarsi su altri di dimenticare un po' le preoccupazioni di General Electric e di condurre quel finale brillante che raccontavamo in precedenza. Grazie ad Andrea Fontana per essere stato con noi, a lui buon pomeriggio e buon lavoro. E allora, il collega diceva, il Dow Jones intravede i 7.000 punti, attualmente siamo a 6.880, il progresso è del 2,30%, staremo a vedere che cosa succederà nel resto della seduta, che per quanto riguarda gli Stati Uniti è ancora piuttosto lunga. Oggi negli Stati Uniti una giornata piuttosto intensa, discorso del premier britannico Gordon Brown al congresso americano, riunito in seduta congiunta, è stato accolto da un lungo e caloroso applauso. Brown, come sapete, ieri ha incontrato il presidente statunitense Obama, e i due hanno ribadito questa relazione speciale che c'è da sempre tra Londra e Washington. Sentiamo quanto una parte del passaggio di Brown al congresso, questa è la sua voce. Tonight too many parents, after they put their children to bed, will speak of their worries about losing their jobs or the need to sell the house. Too many will share stories of friends or neighbors. Allora, state sentendo la voce di Gordon Brown. Questa sera troppi genitori, dopo aver messo a letto i bambini, discuteranno delle loro preoccupazioni circa la possibilità di perdere il lavoro o sulla necessità di vendere la casa. In tanti possono raccontare di vicini di casa che una casa non l'hanno più, o di negozi e imprese che hanno dovuto chiudere. Io credo che questa recessione globale non debba essere considerata solo con statistiche o grafici. Io vedo invece una serie di individui, uno dopo l'altro, con sogni, paure, parte di nuclei familiari, di comunità che oggi hanno bisogno di aiuto e di speranza. Siamo in collegamento telefonico con Mario Platero da Washington. Mario, un discorso, quello di Gordon Brown, che sembra aver toccato davvero il congresso. Direi di sì, guarda, ero dentro la sala, ero dentro l'aula, la Camera dei rappresentanti, dove c'era il congresso in seduta riunita. Sono appena uscito ora ed è stato un discorso toccante, ci sono stati applausi a scena aperta, si sono alzati varie volte in piedi a omaggiarlo i parlamentari. La cosa che mi ha colpito di più è che Brown si è presentato qui come leader europeo e non soltanto come leader britannico. e dunque è stato un intervento il suo di ampio respiro. Il momento più toccante infatti è stato quando ha detto: sono qui a presentarvi non una vecchia Europa, non una nuova Europa, ma l'Europa amica. Ecco, direi che è stato il momento in cui si è sentito il calore più forte da parte del congresso. Dunque Brown è riuscito anche nel suo intento di politica interna, quello cioè di rafforzare, come dicevi tu prima, questa relazione speciale con gli Stati Uniti, di dimostrare che la sua leadership è apprezzata. Sappiamo che fra poco più di un anno avrà elezioni anche lui in a casa sua. Le 18:07, ben ritrovati con Focus Economia, seconda parte, adesso ancora altre notizie in breve. Un aggiornamento sul petrolio, $44.82 al barile. Parliamo anche di consumi, in questo caso di consumi di energia elettrica. Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, il mese di febbraio ha visto una caduta piuttosto pesante, una flessione di quasi 9 punti percentuali rispetto ai volumi di energia elettrica richiesti a febbraio di un anno fa. E cala anche il numero dei TIR che transitano al Brennero. Nei primi due mesi di quest'anno la società Auto Brennero ha registrato un calo del 23% del transito dei TIR e si tratta sicuramente dell'effetto della crisi globale. Allora, per quanto riguarda l'INPS, boom di cassa integrazione, l'abbiamo detto nella prima parte del programma, questo però riguarda in particolare anche i colletti bianchi, boom della cassa integrazione appunto tra i colletti bianchi. Secondo le tabelle diffuse dall'INPS, infatti, per la cassa integrazione ordinaria a febbraio rispetto allo stesso mese dello scorso anno si ha un incremento del 682,49% tra gli impiegati e del 536,48% tra gli operai. Stesso trend anche per la cassa integrazione straordinaria. Prima del GR ci eravamo salutati parlando degli Stati Uniti, vi abbiamo fatto sentire la voce del premier britannico Gordon Brown, che ha parlato davanti al congresso, un discorso che ha molto toccato. Nel corso del suo discorso Brown ha anche detto: da questa crisi mondiale abbiamo imparato che i mercati devono essere liberi, ma non devono essere mai liberi o esenti dalle regole. Su questo abbiamo ascoltato anche la testimonianza diretta del corrispondente del Sole 24 Ore Mario Platero, che è di nuovo in collegamento con noi da Washington. A Mario questa volta vorrei chiedere delle notizie in merito al piano di Obama, un piano che rivede o dovrebbe rivedere le regole per quanto riguarda gli appalti, regole che dovrebbero far risparmiare fino a $40 miliardi l'anno, è giusto Mario? Sì, sì, questa è l'idea. Barack Obama continua a esprimere, direi ogni giorno, delle iniziative in modo più dettagliato, in modo più concreto. Ieri per esempio ha parlato dei $28 miliardi da destinare alla ricostruzione di scuole, alla ricostruzione di strade, e oggi appunto ha affrontato la questione degli appalti. Non dimentichiamolo, la questione degli appalti è una delle più delicate, perché è il sinonimo molto spesso degli sprechi, e dunque in qualche modo dobbiamo registrare questo suo intervento. Mario, purtroppo io devo interrompere questo collegamento perché l'audio è davvero terribile, si sentiva un fischio assai insopportabile, sia per me che ho le cuffie, ma anche sicuramente per tutti i nostri ascoltatori a casa. Ne sapremo di più di questo nuovo piano di Obama, questa offensiva contro gli sprechi negli appalti, anche perché è un tema, come diceva anche lo stesso Mario Platero, molto delicato, anche perché si potrebbe trattare di una vera e propria... un vero e proprio colpo alle lobby, quindi una guerra particolare del presidente Barack Obama nei confronti delle lobby americane. Noi adesso torniamo in Italia perché dovrebbe essere cominciato ormai già da un po' il vertice tra il governo e le parti sociali. Siamo in collegamento con il collega Andrea Viali. Buonasera Andrea. Sì, buonasera Valeria, la riunione è cominciata un po' in ritardo, da una mezz'ora circa, si sta svolgendo nella sala verde di Palazzo Chigi. Il primo a parlare, a quanto apprendiamo, è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta, il quale ha sottolineato che la crisi dell'economia che sta attraversando il nostro paese, ma non solo, si protrarrà nel tempo e per questo bisogna essere pronti a guardare all'emergenza in atto e in qualche modo ad attrezzarsi per il futuro che ci aspetta. Dobbiamo dare la priorità ad interventi che siano utili e finalizzati alla tutela delle imprese, dell'occupazione e della coesione sociale per riavviare lo sviluppo, avrebbe detto Letta, il quale ha anche spiegato che il senso di questo incontro, cioè il motivo che ha spinto il governo a convocare le parti sociali, è quello di sapere quali sono le loro priorità, quali sono le loro indicazioni in vista dell'importante riunione del CIPE che è fissata per venerdì, riunione nel corso della quale verranno stanziati appunto gran parte dei fondi che poi verranno destinati alle misure che serviranno per affrontare questa crisi. Valeria. Sì, Andrea, io ti ringrazio e sicuramente poi vi terremo aggiornati in tutte le prossime edizioni del nostro GR per sapere gli sviluppi di questo incontro a cui partecipano le parti sociali, partecipano anche moltissime sigle per quanto riguarda tutte le associazioni di categoria, e quindi vedremo poi alla fine che cosa uscirà dall'incontro. Un incontro che è stato preceduto anche da tutta una serie di affermazioni e parole dette dal mondo imprenditoriale e dal mondo dei sindacati. Ad esempio la presidente della Confindustria Emma Marcegaglia, in merito proprio alla crisi, ha detto: l'immobilismo è la soluzione peggiore, il governo deve prendere decisioni chiare a sostegno dell'economia e delle imprese, così come stanno facendo gli altri paesi. La Marcegaglia ha detto anche che bisogna intervenire innanzitutto sugli ammortizzatori sociali, soprattutto quelli in deroga. Bisogna mettere subito risorse a disposizione, ha spiegato, destinandole a chi ha veramente bisogno. Per uscire dalla crisi, ha continuato la Presidente, ha invitato Governo e Regioni a finanziare anche le piccole opere che potrebbero essere cantierate subito. La Marcegaglia ha detto che occorre investire per colmare il gap, ma anche per rilanciare l'economia. E poi ancora, in merito ai rapporti tra banche e imprese, serve il mediatore del credito. Questa è la proposta lanciata oggi dalla Marcegaglia. I mediatori e gli osservatori del credito sono una sorta di giudice di pace nei rapporti tra banche e imprese, servono perché dobbiamo fare in modo che le banche continuino a sostenere le imprese. Prima di questo incontro anche qualcuno dei ministri ha parlato: il governo non deve sostituirsi alle imprese o alle banche. È quanto ha affermato il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, che ha rivendicato la linea di non eccesso di interventismo e di minimalismo in politica economica seguita dall'esecutivo. Sentiamolo. In questa fase io credo che serva un sano minimalismo da parte del policy maker. Poche cose fondamentali. Non chiediamo al policy maker di sostituirsi alla banca o di sostituirsi all'impresa, perché il segnale sarebbe devastante. Al policy maker chiediamo quattro cose: o di fare quello che ha promesso di fare, e di farlo bene, e di farlo velocemente, e poi il resto lasciamolo perdere. Alla banca chiedo di fare ancora di più sulla linea profumo, chiamiamola così. Quando qualcuno deve vendere un prodotto finanziario, normalmente fa un roadshow, va in giro e spiega, ma va in giro fisicamente. Ecco, io credo che questo sia il momento della strada, cioè di andare in giro fisicamente a dire ci siamo qua. Se un roadshow di questo tipo lo facessero, come dire, gli stakeholders più interessati, beh, questo sarebbe un enorme segnale di fiducia. Come avete sentito nella prima parte del programma, Banca Italia ha rivisto le stime al ribasso per quanto riguarda la crescita del paese. Nel 2009 le ha portate al meno 2,6%. Sentiamo il commento proprio a proposito di queste cifre da parte del ministro del welfare Sacconi. Io credo che sia difficile per chiunque fare stime in una situazione che è fortemente condizionata dal quadro globale, perché noi siamo un'economia aperta e quindi siamo inesorabilmente legati all'andamento della domanda mondiale. Certamente le preoccupazioni che abbiamo sono un motivo in più per mantenere sotto controllo la finanza pubblica e per garantire quegli obiettivi di stabilità, di liquidità e di occupabilità che ci siamo dati.

per avere più adeguati ammortizzatori sociali. Le risorse risparmiate dalle donne devono tornare prima alle donne per avere pensioni migliori e servizi migliori. Questo è quanto ha dichiarato l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano proprio in merito a questo, a quanto si discute per l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne, nel caso particolare che abbiamo affrontato ovviamente quello del pubblico impiego. Al 349-238-6666 anche stasera ci avete in qualche modo accusato di dare tanti dati negativi, di dare tante notizie brutte, ma il momento è piuttosto difficile, noi stessi siamo molto in difficoltà su come affrontare la crisi, il momento difficile che stiamo affrontando nel mondo. A questo proposito, stasera chiudiamo la trasmissione invece con uno spazio positivo e per questo abbiamo invitato la collega Rosanna Santonocito del Sole 24 Ore, che saluto. Buonasera Rosanna, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie. Perché a voi. Ci racconta di un'iniziativa davvero positiva, di un'iniziativa che potrebbe in qualche modo cambiare, perché no, qualche strada di qualcuno. Può cambiare qualche esistenza, sì. L'iniziativa si chiama Qui si assume ed è una rubrica che verrà realizzata settimanalmente dal portale ilsole24ore.com in collaborazione con il portale lavoro job24.it di cui io mi occupo. In Qui si assume ci saranno le segnalazioni delle aziende che assumono, delle aziende che cercano personale anche in questo periodo di crisi, perché non sono molte ma ci sono e noi vogliamo segnalarle in modo da dare l'opportunità a queste aziende di trovare le persone che cercano, perché se cercano lo fanno perché stanno avviando nuovi progetti, aprono nuovi filiali e quindi scommettono in qualche modo sul futuro, e poi soprattutto per fornire opportunità di lavoro in un momento in cui trovarne non è affatto facile. Allora, questa iniziativa parte adesso e oggi. Non parte con pochi numeri, diciamo subito che già l'avvio è un avvio molto buono. L'avvio è molto buono, sono 1600 offerte di lavoro in 6 aziende italiane. Va detto per onor del vero che il grosso delle offerte vengono dalla Valtour e riguardano i lavori estivi, ma la stessa Valtour non offre solo lavori a contratto oppure a termine per gli animatori, che siamo quelli che siamo abituati a vedere quando andiamo in vacanza, offre anche dei lavori a tempo indeterminato, perché questo vorrei sottolineare. Offriamo anche opportunità a tempo indeterminato in questa rubrica e opportunità per laureati e per profili alti. Noi andremo a cercare anche soprattutto queste opportunità. Ci interessano i grandi numeri ma anche il lavoro di qualità. Quindi diciamo che è un si va sul sito e in modo consultivo e poi diciamo il curriculum ovviamente viene inviato direttamente all'azienda. Si va sul sito ilsole24ore.com, qui si assume, e poi si leggono le offerte, ci sono tutti i riferimenti sia fisici, cartacei, nella maggior parte, visto che siamo su internet, sono email oppure siti su cui approfondire, su cui mandare. Noi abbiamo poco spazio, quindi non spieghiamo in dettaglio tutte le posizioni, diamo il numero, diamo il titolo. Per alcune aziende ci sono delle interviste con i responsabili della selezione e i direttori del personale che spiegano chi cercano e perché stanno assumendo, e poi rimandiamo alle imprese stesse con i loro portali o indirizzi per il contatto. Avete già tante offerte anche per la prossima settimana? Direi di sì, non mi vorrei scoprire, però ecco, se mi sbilancio su una cosa, un settore che mi ha stupito è l'informatica, l'information technology, che non sta vivendo un buon momento, ma anche la settimana prossima, come questa settimana, avremo delle offerte da questo settore, perché anche nei settori che non vanno bene ci sono delle imprese che guardano che il futuro riescono. E che riescono. Grazie alla collega Rosanna Santonocito grazie per aver chiuso in questo modo così positivo, almeno per una volta, la puntata. Io posso ridire ilsole24ore.com, qui si assume, e job24.it, dove invece ci sono approfondimenti più generali sul mondo del lavoro. Grazie, io ringrazio anche in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Valeria Bernardi. L'appuntamento con Focus Economia è per domani alle 17:00.